forme di energia di un altro mondo, forme di energia di un altro mondo. Guarda su nel cielo blu, in pieno giorno, due stelle si muovono, si inseguono. Sul nostro pianeta di guerra, autodistruzione.